Bonville abbiamo Cadillac ed uccidiamo per soldi come te. Puoi controllare i nostri alibi, siamo eleganti e sereni, siamo avvocati rispettabili e ci inchiniamo al denaro come te. Ci annoiamo, abbiamo mogli e amanti, abbiamo tanti amici, a guardarli bene tutti e vermi che siamo costretti a eliminare. La logica spietata del profitto chissà cosa ci fa fine. Beverly Hills e siamo John Cassavetes, siamo i dentisti di Los Angeles ed adoriamo il potere come te. Prepara-